Ho letto spesso nelle riviste evangeliche l'esortazione ai giovani ad avere e di conseguenza vivere un fidanzamento secondo la volontà di Dio. Ma devo ammettere che ricordo ben poche testimonianze di persone che hanno scritto come si sono fidanzate e come hanno vissuto questo periodo. Perciò desidero scrivere come ho vissuto il periodo prematrimoniale per dimostrare che si può arrivare al fidanzamento e al matrimonio senza sguardi languidi e grandi passioni come ci propone e impone la televisione. Inoltre ho fiducia di essere di sprone per qualcuno a scrivere altre testimonianze in merito. Il desiderio di avere una ragazza non è sorto all'improvviso nel mio cuore. Per quanto mi ricordo, questo impulso è sempre esistito. Sarà perché sono rimasto orfano a 13 mesi? Sarà perché, come tutti, ho bisogno di amare e di essere amato, sarà una mia componente psicologica. Sta di fatto che la presenza femminile mi ha sempre fortemente attratto. Mi sono convertito a 21 anni e fino a quel giorno non avevo avuto nessuna relazione seria con una ragazza. Ero arrivato al massimo al bacio, tra l'altro per nulla passionale, solo perché ero costretto dalle circostanze. Per me, devo confessarlo, era un grosso problema relazionarmi con l'altro sesso. Non riuscivo a guardare una ragazza, stringerla a lungo durante un ballo e provare per lei una qualche passione. Preoccupato, andai dal medico, il quale, dopo una visita, mi disse che non c'era nulla di anormale. Ma il dilemma rimaneva. Perché non riuscivo, come i miei amici, a provare passione e sedurre una ragazza? Ma il desiderio di Dio era talmente forte che i problemi sessuali passarono in secondo piano e, quando conobbi il messaggio dell'Evangelo, dopo 3 mesi lo accettai. Diventato un figlio di Dio, le ragazze del mondo non mi interessarono più. I miei occhi erano rivolti esclusivamente verso le ragazze credenti e così, mentre andavo a tutti gli incontri giovanili col profondo desiderio di ascoltare la parola di Dio, osservavo anche attentamente chi poteva essere colei che avrei scelto. Ma Dio aveva per me un piano diverso. Pochi anni dopo la mia conversione, si trasferì in primavera a Modena per lavoro una ragazza credente, ma disse subito a tutti, apertamente e con fermezza, che non aveva nessuna intenzione di sposarsi. Voleva spegnere, in tal modo, qualsiasi iniziativa romantica da parte di qualche giovane. Passarono pochi mesi e non ci volle molto a capire che questa ragazza non solo dimostrava di non volersi sposare, ma era veramente contraria ad ogni attenzione maschile nei suoi riguardi. Si irritava con nulla e rispondeva male anche inopportunatamente. Era, per così dire, un osso duro. Ma nell'osservarla bene mi sembrava che il suo modo di fare fosse una reazione, più che parte del suo carattere. Vedevo in lei tanti difetti, ma aveva una cosa che mi attirava. Era affettuosa. Così studiai un piano. Avevo un'ernia fastidiosa. Mi sarei fatto operare per poi andare, durante la convalescenza, ad aiutare l'opera missionaria per la quale lei lavorava, per poterle stare più vicino e capirla meglio. Venne il mese di dicembre e durante la convalescenza andai a prestare la mia mano d'opera disinteressatamente, ma la mia presenza la irritava sempre più. Ad ogni cosa che dicevo ricevevo risposte taglienti. Ma venne il giorno decisivo. A mezzogiorno di solito mi veniva offerto il pranzo. E quel giorno, non essendoci nessuno che potesse occuparsi di me, le chiesero di invitarmi a mangiare con lei. Accettò visibilmente con rabbia perché non poteva sottrarsi a tale compito. Subito si mise a preparare il pranzo ed io, come mia abitudine, la osservavo nei minimi particolari per cogliere non so che cosa. Venne il momento di condire l'insalata e, presa la bottiglia, la inclinò per fare uscire l'olio, mettendoci, come di consueto, il dito davanti per controllare l'uscita di questo. Ma ricordandosi della mia presenza, con uno scatto, ritirò il dito mettendo di nuovo la bottiglia diritta. Poi, con tutta la disinvoltura che le era possibile, versò l'olio molto lentamente senza il dito davanti. A quel punto capii, non le ero del tutto indifferente. Nel mio cuore nacque un barlume di speranza. Ma vi era un grosso ostacolo. Se non le potevo assolutamente parlare amichevolmente, perché lei lo avrebbe interpretato come una avance, come avrei potuto esprimere dei sentimenti amorosi? Dovevo comunque fare qualcosa. Desideravo che diventasse la mia ragazza, ma prima di tutto volevo instaurare con lei un rapporto di amicizia, o almeno di non belligeranza. Presi coraggio e le dissi che volevo parlarle. Lei, diramando in tono minaccioso, mi disse: «Anch'io ho bisogno di parlarti». C'erano nuvole di tempesta all'orizzonte. Entrammo in un ufficio, io mi sedetti dietro ad una scrivania, e lei in piedi davanti a me e con le braccia conserte, con uno sguardo che non prometteva nulla di buono, mi invitò a parlare. «Senti», le dissi con il cuore in gola, «ho capito che non mi vuoi. Mi fa piacere che tu l'abbia capito». Mi interruppe lei soddisfatta. «Beh», risposi ormai distrutto nel vedere svanire ogni mia speranza. «Non ci vuole molto. Ogni cosa che dico è una ragione per litigare». Non ricordo in seguito che cosa ci siamo detti. La conversazione si protrasse a lungo e le mie ultime parole furono: «Comunque sia, i miei sentimenti nei tuoi confronti sono diversi. Ci lasciammo almeno in pace». Dopo neanche un mese, un giorno, prima che finisse la convalescenza, mi disse che mi voleva parlare. Rimasi stupito perché dopo la mia dichiarazione non ci eravamo più parlati. Andammo nel solito ufficio, mi sedetti, e lei, stando sempre in piedi, con molto imbarazzo, mi disse: «Sai, per quella roba là». Ti dico di sì. Il cuore stava per scoppiarmi, ma volli essere sicuro di non essermi illuso. Così chiesi di rimando: «Quale roba là? Non capisco». «Ma sì», rispose lei ancora più imbarazzata e un po' innervosita, perché doveva essere più precisa. «La nostra conversazione. Te lo ricordi? Ebbene, io ti dico sì. Però», aggiunse subito, «dato che sono sola e devo rendere ragione agli altri del mio comportamento, dobbiamo prima annunciarlo alla chiesa. Poi potrò uscire con te». Fu così che stabilimmo il giorno dell'annuncio del nostro fidanzamento, il 6 gennaio del 1967, in occasione di una festa in casa di un fratello. Durante la festa chiesi a tutti di fare silenzio perché avevo un importante annuncio da fare. «Io e Lidia ci siamo fidanzati», dissi con una gioia che sprigionava da tutti i pori. Ci fu un coro di entusiasmo e di auguri. Ma ad un tratto, nel bel mezzo della confusione, si sentì la voce di Lidia. E chi lo ha detto? Una spada mi trapassò l'anima. Mentre i fratelli e le sorelle ridevano di questa uscita inaspettata, senza cogliere il mio dolore, la mia disperazione, la mia morte, reagì e disse a tutti di tacere. «Bene», aggiunsi riprendendomi. «Visto che le cose stanno così, adesso Lidia dirai davanti a tutti se è vero che ci siamo fidanzati, oppure no». A quel punto lei dovette ammettere il patto che avevamo fatto. Ci eravamo fidanzati pubblicamente tra nuvole e tempesta. La domenica seguente, per la prima volta, due giovani camminavano mano nella mano per la città di Modena. Lei non era mai uscita con un ragazzo da sola, ed io, per la prima volta, nel toccare una ragazza, mi resi conto di essere sessualmente normale. Ciò che mi aveva impedito di provare passione per altre ragazze era stata la mancanza di affetto. Il sesso doveva essere coinvolto dai sentimenti. Per me l'affetto e l'amore stimolano il sesso e non viceversa. Così, sempre con mano nella mano, siamo andati avanti un mese. Io ero talmente felice che, per paura di rovinare la nostra relazione o di perdere quel dono che da sempre avevo desiderato, ero soddisfatto di questo tipo di rapporto. E mano nella mano passavamo le giornate e le serate assieme, parlando di tutto come fanno due innamorati. Una sera, dopo aver chiacchierato a lungo, giunse per me il momento di tornare a casa. Stavo per salutarla, quando con un candore che non ho mai trovato in nessuna ragazza, lei mi disse: «Tu mi dici che mi vuoi bene, perché allora non mi dai un bacio?» Il mio cuore si sciolse, mentre ardevo più di un ferro rovente. Ma con tutta la sincerità che mi ha sempre contraddistinto, le risposi: «Vedi, nel mondo, quando un ragazzo dice che vuol bene ad una ragazza, la bacia subito. Poi invece si tratta solo di passione. Io ti voglio veramente bene, ma è proprio perché te ne voglio che non ti bacio. Per me sei troppo preziosa, e non voglio che baciandoti tu pensi che sia spinto dalla passione». «Non importa», rispose con una purezza che faceva impressione. «Io voglio un bacio». Fu così che per la prima volta un giovane, pieno di sincero affetto, nella penombra di un lampione, pose delicatamente sulla guancia di una ragazza senza malizia le sue labbra con un sonoro schiocco. Non so, in seguito, il modo in cui lei fece le scale per andare in casa, ma posso dire che la mia 500 volava tra le nuvole. Passarono pochi mesi ed io cominciai a parlare di matrimonio. Non mi ero fidanzato per prova, ma perché volevo sposarmi. Concepivo il fidanzamento come un periodo di transito per il matrimonio. E nulla di più. Io ero molto serio e sincero, ma questo non bastava perché ero anche molto immaturo. Lei aveva la testa sul collo e un giorno mi disse che non credeva ad un matrimonio fatto di due cuori e una capanna. Così, con saggezza e competenza, mi fece notare che le nostre paghe, soprattutto la mia, non garantivano un futuro economicamente sereno. Perché questo potesse realizzarsi, avrei dovuto guadagnare 80.000 lire al mese ed avanzare 3 scatti di categoria sul lavoro. Era un'impresa più che ardua, ma se volevo sposarmi, era l'unica soluzione. L'amore e il bisogno fanno fare cose impossibili, e così, nel giro di un anno, ottenni esattamente quello che lei desiderava. Ci sposammo in maggio l'anno seguente, anche perché il bacio dato sulla guancia ben presto scivolò sulle labbra e in questo modo si ruppe l'incantesimo dell'innocenza. Mi resi conto che un fidanzamento, dopo un anno, diventa pericoloso per la sua integrità e, per la maggioranza dei casi, è la donna che ha le redini della situazione. Sono ormai 30 anni che siamo sposati. Abbiamo avuto e abbiamo tuttora le nostre difficoltà e incomprensioni, ma le caratteristiche iniziali non sono venute meno. Lei è rimasta affettuosa, io continuo a volerle bene. Anzi, il mio bene si è trasformato in amore. Oggi le dico che la amo, cosa che non le ho mai detto durante il fidanzamento e i primi anni di matrimonio, perché conoscevo il peso di questa parola, che non può essere espressa se non dopo aver passato assieme parte della vita matrimoniale. Questa storia potrà sembrare ad alcuni una favola di altri tempi. Altri possono giustificare certi nostri comportamenti casti perché si viveva in un'altra epoca. Ma vorrei ricordare che anche ai miei tempi esistevano la corruzione e la seduzione. Molte ragazze rimanevano incinte e venivano abbandonate. Il bacio era praticato senza affetto. I rapporti prematrimoniali erano normali. Ma quando si conosce Dio e il suo carattere, quando si ha il suo timore e il nostro cuore è profondamente sincero nel desiderare di fare la sua volontà, egli sa trarre i pii dalle tentazioni. Non è detto che ci si debba sempre sposare profondamente innamorati perché un matrimonio sia duraturo. Non è detto che si debba trovare sempre la persona dotata di tutti i requisiti che cerchiamo per essere felici. Una volta erano i genitori che decidevano chi sposare e quando sposarsi. Basta leggere 1 Corinzi 7:36-38. Anzi, ancora oggi, in certi paesi, delle bambine di 12 anni vanno spose a uomini molto più vecchi, senza averli mai visti. In Italia oggi abbiamo la libertà di scegliere il compagno come e quando vogliamo, ma nonostante tutto sono pochi i fidanzamenti seri ed i matrimoni duraturi. I giovani di oggi mi paiono in balia dei loro sentimenti e dei loro impulsi. Si trovano a dover gestire la sessualità che a loro è sconosciuta e quindi pericolosa. I ragazzi hanno bisogno di persone più mature che stiano a loro vicino. Hanno bisogno che le persone con più esperienza parlino chiaramente loro dei propri successi ed insuccessi amorosi senza vergogna, per sentirsi capiti e normali, poiché la maturità psicologica la si ottiene solo dopo una lunga lotta di dominio sui propri sentimenti. Una cosa saggia da fare è ricordare ogni giorno che noi sposeremo o abbiamo sposato un essere umano con tutti i suoi limiti e difetti. Molti matrimoni falliscono proprio perché sposiamo un ideale e non il coniuge che abbiamo scelto. Qualcuno disse: non potete essere sposati in tre, il tuo sposo, tu ed il tuo sogno. Se vuoi sposarti con serietà, divorzia dal tuo sogno. E ciò è saggio. perché il matrimonio distrugge le immagini che non corrispondono con la realtà. Basterebbe realizzare questa verità per vivere la ricerca del nostro compagno in modo sereno e intelligente, per godere nel matrimonio tutte le numerose benedizioni che Dio ha promesso. Maggio 1998, Ellero.